Marcello, attenzione. Che scende male? Ok, guarda, su sei. Dove è stato? Ma la strada, come mai non c'è nessuno? Tu vai in gioco, io sarò qua nel Filippino. Dove ho fatto le volte il servizio di radio? Tu sei stato, ma Gianluca sì. Ma lì sta l'educazione della gente, capito? dico, sono colpo, non lo so, un caso di cigani, non ho capito io. Ma, per carità, perca. Comunque sei entrato oggi a riposo ieri, e beh sì, oggi domani. Sono rientrato, gli ho travagliato queste più di legate da sei nocchi. E comandante, ho imbarcato la divisa solita, mi sono rientrato assume. Addirittura, è caricata ottava, si è caricata anche su sala, si è caricata anche sui voti. Cioè, se quelle tende che è di guida solita. E capita, ma neanche quando sbarchi ti lascia libero. Fracca che non ho ricordato bene perché non ho letto più in nave, non dormivo un cazzo. Là, davvero là non dormivo lo stesso perché quella albergo Mercedes, noi che... meglio della nave già è comunque tipo, verità, è meglio della nave, si dorme meglio della nave. Voglio fare l'albergo. Adesso vai a Cagliari, a che ora parti? Alle 4:30. No, albergo Mercedes, non hai capito. Certi alberghi, certi cose, lo preferisco mille il camion. Già il camion è più roba tua, sai che insomma, la tua macchina intanto non la usavi su altro? No, negativo. Infatti l'avete dormito e mi avete in casa. Ma no, in nave no, ma in camion sì. Ti volevo dire, Gianni! Parami! Città, sempre di continuo, uscì. Positivo, e poi arriva, ieri sera 5:30 sono arrivato in porto, a Genova, caricato cemento, sono arrivato alle 5:30 in porto. Cazzo, si è sgambiato pure le mani, sono sceso da Verona, verso Genova. Quindi c'è la media davanti, mentre è fatto, eh? Sì, dico la verità, ma sono 45 però, anche chi si sopra così qua era terra a terra, non si riesce neanche a comprimini e non arrivi a dove hai chi. Però appena hai chiesto informazioni, per dove dovrei andare, no? Assolutamente no. No, non è bisogno di informazioni, no, mai per... Non ho chiesto informazioni a nessuno. Stato tranquillo, siamo tranquilli, adesso ho trovato tranquillo. Vabbè, fino a cosa, l'ho messo per curiosità, come si chiama il conto? L'ho messo per cosa, e in realtà già diceva giusto, sino a, diceva, e cercava pure le idee, caso che sia, e che non si può diventare corsi. No, per quello, è fatta pure la testa satellitare, ho attaccato di già, mentre accompagna esso. Fare il camionista, ma l'unico problema io è quello che magari non conosco bene le strade, è un casino, se mi mandano appunto il casino io mi cavo sopra. Quello è il problema, vedi, quello è bisogna, devi sbagliare la tua strada, devi stare attento come prendi le strade, cazzo G, devi stare attento come le imbocchi, ma con questo mezzo. E io risolvo, isso è. E uno è prendere la mano nei traghetti, nave, a portare su e cose, una volta quello lo fanno tutti, un qualsiasi autista, il primo giorno lo fa meno di un altro, ma poi ci sta una settimana e si prende già la, diciamo, la mano e fa lo stesso. Ma io per esempio lo porto benissimo, non l'ho tratto tanto impressa, tanto piano che non l'ho posto a far danno, mi ha dimesso i cattolici che mi è stato e è andato via. E no, mi ha già tirato da sopra. Ma la nave propriano, ha lasciato la tua se ne dice che la nave sta distesa, e lo trattorista è stato di voi, spesso di voi, da un capuccio di terra, è stato di voi, trattoristi, e di voi, ma se siete stati di traghetti, dei di voi. Sì, vabbè, un medico si sta a fare la scelta. L'articolato quanti ne avrei fatto la mano autistiche lascia stare a me, io faccio io qua e là. Mi è toccato le palle da mano all'articolato. A chi dai un'ora e un quarto, partigendo un rimorchio. Cambiami il trattore nostro dal coso. Io non ci vedo, che a me è raro di pagliare a mano fra io, è rarissimo. Quante volte sono salito in nave anche in altri posti. Mi sembra di non aver mai sbagliato manovra, perché se mi metterò lì lo metto e non ha più problemi. Per quello non ho problemi, sono una vita che ho fatto. Devo dire che non ho visti molto, poco esperti, capito? Noi li chiamiamo autista marcia avanti. Li poi a marcia avanti e ti girano il mondo tranquillamente. Ma a retromarcia voi la lasciamo a figli. Dica a te, ti butti la marcia avanti, tu lo già. Mi siamo già fatti. Sì, sì, io lo so, a marcia avanti a noi ci battono tutti, non è un problema. Ma a retromarcia non ve ne è parole. Se voglio fare salire nella rampetta di Adirina, gli sei di alzare le macchine, a retromarcia. Sì, ma tu devi stare con i nostri trattori, non con quelli tuoi. Con i nostri trattori sono diversi. C'erano un'altra spinta diversa, i punti sono fatti apposta, capito? Che cazzo è un'altra cosa diversa, devo finire qui, si pone la mattina a puro di figli. No, ma lascia perdere quello, la spinta, lascia perdere, che metti i ridotti e sale comunque. La manovra, è diverso, la manovra. La giuvizio autisti liati a Nodumoshu. Io ho notato una cosa sia a Genova, la moglie di Tokyo e altre voci per queste trattoriste. Mi sono per traucci, mi dico, no, non è per carità, ma non ci metto un bene veramente, e traucci se dite trattoriste. Cazzo, io mi tocca attento se non fate queste cose, invece voi invece non siete un cazzo, non mi costa niente. E di cosa oggi? E questi gli ride, questi vedi, noi non si chiamano nate le gomme, invece voi ci mettono tutti i suoi problemi, hanno sono puniti, compreso tra i niti e pure il rimorchio di tutti i girenti. Ieri il mercato ho detto, io sono entrato e mi sono girato dentro, cazzo, Guido, che ha fatto fare un rimorchio carro, e con cazzo ha fatto girare, e non abbiamo tutto il bisogno di farlo, i ragusini, effettivamente è andato via, ma c'è dietro, pure il rimorchio della fine della girenti in tondo. Cazzo, non sono manovre da fare, quelle con rimorchio carico così. Ma senti come cadere lì fa copiarsi. Allora sai cos'è, che noi abbiamo gli orari. A noi il bordo ciccio, sono le 8, ancora non c'è niente, quindi devi camminare, non le guardi queste cose. Lo so, ma non le guardi, però guarda che quattro un po' di gomme, quattro così. Ah, se un po' di gomme, poi così si battono un po' di danni. Non so cosa succede, se la Tirrenia ad esempio, marcando la Tirrenia, ti danno l'orario, alle 8:30 deve partire, se tu alle 9:15, 9:10 stai ancora imbarcando rimorchi, per causa tua, ma non sai cosa, tutto ti addebitano, gasolio, pilota, tutto ti addebitano. Vabbè, però è che poi vanno a far danno, si vedranno se le piace la donna di fare la buia. Sì, già ci sono state occasioni assicurate, e comunque sempre pagato. Va bene così. Ci sentiamo più tardi, che stanno a vaccinare. Ciao. Ciao. Stavo dicendo, un giorno ne ho preso l'articolato a un tedesco, mi hanno fatto portare di là alla stazione di polizia, a chi aveva la cottura in alto fuori di acqua, e non riuscivo a salire, dizia solo, Mirto, Sardegna, solo quello sapeva lì. Vabbè, se non è così è un problema. Troppo io le facevo, e la polizia mi ha dato l'articolato, c'è l'articolato e ci ho portato alla stazione di polizia. E non hai mancato? No, non hai mancato, poi sta fatto la notte dentro. Sì, sì. Bravo, tu sì. Oh, ciao a tutti, ci sentiamo. Ciao G, bravo, c'è un pensamento, aiuto. Buonasera. Ciao G, ciao. Non ti sento ben male. ma io sei Massimiliano, io ho capito Massimiliano. E tu hai detto Fabrizio? Era buono anche quello che c'era quella specie di salsiccia in mezzo di dell'asta. E vabbè, è più questo pesce gatto che non l'avevo mai mangiato, l'ho mangiato, che si assomiglia un po' a quel pesce d'oristano, fritto sempre, e l'altro che era, non sapevo cos'è. Poi ho mangiato il tutto, che coso? E mi ha detto, allora, dice, questo è così, questo è così, quest'altro risotto, dice, è risotto alle rane, questo è pesce gatto, questo sono rane fritte. Ho mangiato le rane fritte e il risotto alle rane. E buono. Era croccante, ho capito il capo, e poi se poi ho detto, ma senza fine questo pesce, ha detto come il capo, era croccante, ma era abbastanza croccante e duretto pure mangiato. E invece era il rane la mannaggia. E anche era tutto tagliato con dei pezzettini in mezzo al risotto, no? Capito? E poi non me ne sono reso conto, non ci ho pensato a questo fatto delle rane, non ci ho pensato. Però poi l'ho mangiato, ma detto che era il migliore. Chi è che tu era il migliore di tutti i rani? Perché già questo pesciolini, questi mangia tutto, fritti, insomma, questo riso, erano ben duri mangiandoli. E no, non li mantirava assai. Quelli gamberetti visibili che erano fritti lo stesso, erano duretti, in mezzo si davano fastidio mangiandoli. E più quello, ma per me sono migliore questo e questo. E va bene. Poi ho mangiato il pesce gatto, era buono, dico, non era fritto sempre, questo lo fa pensare. E in quanto non sapevo cos'è, mi sembra che tipo di pesce, invece era il rane fritto. Beh, allora ti lascio vegliare, te lo immagini già oggi, è venuto brincando in oggi. Cascato. No, mi sono arreso dopo. casa, è proprio a questo, lo puoi prendere, lo gusti, lo mette, e Mario, metta, se vuole, vuole, e ha detto, no, non lo devi buttare, non si fa, deve fare il commento, pazzia, chi è il commento, io lo commento, tutto, e lui miravano, pazzia, e mi dico, certe ragazze che erano lì, lo tiravano, quel bicchiere, lo ricadano, l'annustravano, lo gustavano, tornavano a guardare, lo tornavano a girare, capito, era il coso suo, quello lì, perché se tu bevi tutti quei vini lì, allora si crepato, e invece quello lo mettevano in bocca e lo sputtavano dopo, capito? Scendo via. Positivo, a me lo metteva, e dice, un neghetto un pochettino, e lo uso e me lo bevo pure, non lo sputto, e perché lo devo sputtare? E dico, no, va bene, non va bene, non si fa così, non lo devi bere tutto, devi lasciare un po' nel bicchiere, va bene, allora cominciavano, e un po' che per una come buono, e ne andavo un poco. Poi arrivimo da Giorgino, ma dentro è Giorgino quello di Ucini, no? Che c'ha le scarpate, ma senti questo a Giorgino? No. E quello però un anno fa, voglio dare infatti, aveva vinto il primo figlio, i figli italiani, e cosa aveva vinto lui, col carpante, questo. E quando siamo arrivati da lui, siamo passati davanti e ho detto, beh, e lui faceva il camionista, portava la birra, c'era tutto il camion, il passeggio, il trasportatore, quello, gli autisti che fanno la prima viaggia a lui. Ho detto, guarda che questo, ha detto, qua ti entrate nella Sardegna, qua ho detto, se tu lo sputi, lo butti via, qua ti offendo, e poi lo devi bere tutto, non lo puoi buttare, certo, come fai a buttare via un vino così pregiato, ho detto, non si può buttare. Sei prento, lo devi lampare. Poi ci siamo arrivati, adesso non ce la faccio più, è già questa, quella è buona, insomma, anche quella, è quella. E poi viene il rigore, sì, che sono passate poi arrivare all'Urio, e poi il coso della carne, che carne è bella, non ho mai visto mai in vita mia carne così bella, era proprio scelta per mettere lì, guarda, ho messo fiorentine e lode di vitellona, di che cosa era, mai avevo visto così belle. Ci sono in continente, anche io quando sono andato a Roma ho mangiato la fiorentina, una bella fiorentina, bella massiccia, grossa proprio. Sì, io l'ho mangiata, guarda, l'ho mangiata bene di notte, l'ho mangiata, no, e l'ho mangiata bene di notte, l'ho mangiata, ma l'ho mangiata due volte, no, due volte l'ho mangiata lì da Fiorentina, due volte. E siamo tornati a mangiare con la Fiorentina, siamo tornato nuovamente, un paesello, ci siamo fatto 84 euro di per trattore, venerdì notte ci hanno fatto 84 euro di multa. E perché cosa? È ambientato per il camion, ma noi siamo andati a Matese e siamo andati lo stesso. Ah, quel paesino non si poteva entrare? No, da nessuna parte. Si è entrata, è parcheggiata, mi dico qua, beh, tu lo sai che domenica notte ci siamo tornati, abbiamo rischiato di lui, che siamo andati nuovamente lì, che ha lasciato il cugino di Mario, perché eravamo in macchina, dai, poi veniva il cugino a prenderci, capito? Noi eravamo lì nel porto, vicino all'aeroporto, fuori di dal centro di coso, e veniva lui a prenderci in macchina, e ci ha portato alla fiera, avevo permesso di venire, perché c'era un appuntamento con quello del luglio, che dopo firmarci del vole, e ci abbiamo fatto dare altri due, 45 euro si pagava, ci abbiamo fatto dare altri due permessi, ci dava lui, ci ha fatto entrare e abbiamo tornato, capito, se metteva lui veniva lì all'ingresso, al coso, abbiamo fatto entrare altri due, il cugino più la fidanzata del cugino, no, siamo fatti entrare, perché la sera prima ci hanno offerto la cena, capito, siamo portati a mangiare il rame. Ma siamo prima avete mangiato, è vero? Come? Noi primi c'erano in questo posto. No, abbiamo preso, sì, e poi ci ha dato il riso, non c'è regata, altre gente le cose, tutti mangiavano le cose, cinque tipi, piatti di riso, poi andare. serviti, ma sono gli stessi, sono 5 minuti di stessi, capito? Allora, poi abbiamo mangiato pesce fritto, te l'ho detto, non ho voluto altro, questo pesce fritto, mi pare che è un po' di salatina, c'è del mezzo verdura così, e niente, e questo dolce, poi il caffè alla fiamma era meraviglioso, già, caffè alla fiamma, guarda, abbiamo preso 4 caffè alla fiamma, una cosa, guarda, una bomba, cosa vuol dire una bomba? Una bomba veramente, non lo so perché l'ha portato già dentro un coso in acciaio, un contenitore in acciaio, l'ha svuotato nelle tazzine, e come ce l'ha svuotato nelle tazzine con la cintina, ma le fiammate, la tazzina, la stava la fiammata, sai, devo la tazzina con caffè, e bruciava pure questo coso, e bruciava parecchio. Come è finita la fiamma se dovrebbe bene, capito? Ma l'alcol, tu ti immagini che è acceso, la fiammata sta di fatto lunga lunga, ma immagini l'alcol che c'è in mezzo a questo caffè, io le sentivo, l'alcol forte sentivo come un gusto di liquirizia in mezzo, lo sai già, però ti dico che era buono, ma sei imbriagata pure. Sono stato con la liquirizia, come può essere il misto, c'è anche quello della liquirizia, non so se lo conosci. Ma non mai capito, no. Il misto è tutto il buono vaccinino, sopra un caffè non attendimi, il tuo caffè attendimi, chi c'era caffè nego, non so io che cazzo era l'alcol puro, che cazzo ne so. Grappa. Ma da un cibalta, ero pochi, ma voglimi, a salute le marivite, mamma mia, era già fatta se mi arrivite a San Bairate, cazzo, detto, no, il cambio, sembra dormire, io dormivo bene in casa. Tanto c'era un tutto lì, c'erano le docce, i bagni, abbiamo il parcheggio a pagamento con le cose all'interno, abbiamo il cambio, si paga 15 euro, c'è andato a fare un singaro, poi abbiamo messo lì il cambio, il parcheggio lì, ci avevamo lì, entravamo, ci fanno, e niente, veniva a prendere, ci siamo scippati a trattore. 15 euro al giorno, il cambio a punto di vista con i vigilanti che lo controllavano. È tutto recintato. Beh, ma stai tranquillo, se c'è il carico, non è paura che sia per il telone, ecco. Ma nella carico di via, c'è quello di Mario, è rimasto lì fermo parcheggiato, perché è custodito. Tutte le telecamere, c'è solo, e lo pagano, messo giù, preso, cazzo giù. Capito? E quindi siete arrivati fino alla fiera con il camion, così? No, siamo dovuti entrare dentro la fiera, non arrivare. Siamo entrati all'interno della fiera a scaricare. E l'avete scaricato voi il camion, i rimorchi là? Positivo, trasparente a mano, abbiamo preso un coso a nolliggio che c'erano lì, a caricare il muletto, e ce le metteva giù, diceva cosa le mettevamo in ogni stente, capito? Siamo 74 stente, e abbiamo venduto tutto il vino, tutto il coso. Quello da mangiare lì non potevano vendere, tu devi solo degustare, capito? Poi, la prima volta abbiamo trovato luglio, perché siamo andati a fare questo di francello per il fatto del luglio, c'era la fermare le bolle, e c'erano tutti i luri italiani, e c'era tutto da mangiare, no? Tutti, c'era il luglio sopra il tavolo, dei bicchieri, e quindi ho visto pure mangiare il coso, lo usavano, lo assaggiavano. E però questo lì ci ho messo sopra le croschette, ho fatto la pezza della salsiccia, del formaggio, delle olive, veniva tutta la strada olive. Mentre che lì iniziamo a mangiare qualche cosetta, capito? Ho capito, si poteva fare una degustazione e basta. Adesso ce l'abbiamo che pare a Haiti, che dovrebbe essere la saga dell'asparagus. Ti posso dire una cosa, siamo andati alle sera, ma già lì in sera, siamo andati a guardarci il posto la sera, siamo andati pure a trattore, prima ci ha accompagnato il cugino in macchina, che veniva sempre a prenderci. E poi abbiamo fatto il giro a trattore, e dopo siamo stati lì perché ce lo vediamo, tanto non abbiamo niente da fare, venerdì sera ci abbiamo fatto il giro lì, e siamo andati a partizionare, siamo andati alla fiera, e siamo andati al punto dove dovevamo entrare, per conoscere molto bene il posto, sia che ci sbagliavamo, per vederlo meglio siamo andati, e abbiamo fatto il rientro, tutto andato bene, e ce ne siamo andati a pranzo, a cena dopo. E invece abbiamo preso la musica, la vedo lei a casa da qua. Ma poi dopo la mattina siamo andati alle 6 di sera, minimo un chilometro di coda, da una parte, dall'altra, non si fa, per arrivare a cancello di questa vedera chiusa ancora più quale sia. Ma sono da via di Cagno. Beh, aperto alle 7, alle 7, a 7 e mezza eravamo già dentro, alle 7 e mezza, 7 e un quarto eravamo già dentro, no? Sì. Comunque mi siete divertiti, ci hanno detto anche girato. Poi siamo entrati dentro, hanno detto, oh, tutti i cambi sono andati a finire. Allora, di coperto ci sono, sono 11 ettari di coperto. 11 ettari di coperto. Senza contare tutto il libero. Ma di parte gli sto parlando? E così le tende che sono state fatte dentro il coperto, no, i partiti no, la fiera. Guarda, la gente ce n'è. Non so se fare 45 euro, era troppo confuso. Noi siamo andati via alle 2, alle 9 e mezza siamo andati alle 2, da dentro lì, perché tanto non ci fa male andare a mangiare da nessuna parte, dovevamo allontanare. Capito? Poi mi sono venuti in macchina a prenderci, lì abbiamo chiamato, perché alle 2 ormai sacco, le gambe ce la facevano più, a mangiare non faceva, perché anche dove c'erano i panini, solo i panini per la colonna, la birra longa, e non si sentito parlare di settimana, ma ho preso troppa confusione, troppo, e dopo abbiamo fatto venire a prenderci e siamo andati a piedi dove, a un certo punto dove ci avevo lasciato prima, e siamo portato via e siamo andati a casa di questi qua e abbiamo fatto una fantascienza al volo lì, una cosetta da invece di carne. E ci abbiamo fatto due passi a piedi per Verona, è stato visto che era bella la terrazza e ho visitato un po' l'arena di Verona, anche ho girato un po', ho camminato un casino a piedi per Verona, centro storico, è bellissimo, non passano le macchine. Ho girato, ho visto tutte quelle torri, ho girato tutto quel lago grande, siamo passati sopra il ponte, ma è bella grande, è bella veramente Verona. L'ho girata dopo è bello da vedere, però è gente piena, sai cosa vuol dire quando c'è la festa di San Gabino Maria, quando è invece già stato mai dove si fa a Verona domenica sera. Cazzo, e i cassonetti ancora con le case disegnate sono? Cassonetti? Non capito. A Verona ci sono i cassonetti della Mondetta, che sono a mo' di casa, li disegnano la casa, poi la parte di sopra la fanno a tetto, come il tetto rosso, con le tegole, capito? No, ci ho fatto caso a queste cose, però i cassonetti c'erano pure la Mondetta, ho visto i cassonetti, sono diventati da inutili, ma sì, ci sono, ma sono diventati da inutili, mi pare che sono, sono quasi arancione queste colori. Vabbè, li abbiamo cambiati, quando sono andato io c'erano questi colorati disegnati, anche che altro. E poi sei andato a vedere Romeo e Giulietta da casa. Positivo, siamo andati a vedere anche questo. Sì, ma però non ce l'abbiamo fatta a girarla, non ce l'abbiamo fatta. Siamo entrati, ho visto tutto quel coso, dove aspetta, mi ha detto chi era l'addetto che scendeva con la barchetta, arrivava lì, si faceva portare lì per non farsi vedere, arrivava da quel fiume, entrava e usciva da lì e rientrava da lì. Questa cosa chi era quella lì, me l'ha detto pure, se non mi ricordo. Ma è bella Verona, vedere, girarla, cazzoggiata, è bella vedere, bella. Non ce n'è l'aeroporto né un cazzo lì, l'ho visto da qualche parte. però non mi ricordo dove, quando eravamo in che stiamo andando in vettura verso, ho visto che c'era questo, forse abbiamo passato il video, ma non so, un aereo l'ho visto per le caccia bombardiere, come si chiama, quelle lunghi, lungo stretto, messo in tiri, non so se è lì. Allora, è quello lì, quello è messo così, infatti. È messo quello di punta, così in suo, messo dritto dritto, quasi dritto. Quello lì dice, che c'è quell'aereo lì. Sì, sì, soprattutto qua qui dentro ci sono aerei tutti distrutti, elicotteri, tutto, L'ho visto di notte, quando stavo andando, di notte l'ho visto, Rodrigo, perché c'era illuminato quel pezzo lì, ho visto quello lì, capito, quel caccia bombardiere, quello dritto dritto lungo. Io mi ricordo poi una cosa, mi ero attento che ci sono le prostitute da un paese all'altro, mezzo nude e anche di giorno. Beh, quelle ci sono tutte le sbarche. Anni. Avanti. Via, ciao Antonello. Dammi controllo, come sto uscendo? Beh, Antonio, tu vuoi prendere senza parlare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Cos'è, le metro c'è? No. L'Eco Master della Salerno, attaccato al baracchino di Leoncino, quello grigio. Come sta uscendo? Bene. Alla fine ripeto un po' troppo, forse, vero? E da prova o perché poi ti dico dove è il problema. Prova a parlare, parla un pochettino a lungo. Senza fare 1, 2, 3, non lo fare 1, 2, 3, non lo direi mai. Tu parla normale come sto parlando io adesso. Stavo fischiando. Un bel casino mi porta a pressare sui televisori. Guarda, in questo momento come va? Va bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Sì, la radio può andare, però forse c'è qualcosa da chiudere perché cerca di fischiare, si sente tutto a fondo e poi c'è troppo amplificazione, sarà, no, troppo amplificazione, troppo il micchighi aperto forse, prova a passare appena per il micchighi, così per curiosità, perché abbassi leggermente il micchighi e tu schiacci la portante, ma non devi parlare, non parlare ancora. Oh, mi sta ascoltando col termine 9. sento un fruscio, come un sibilo sento, senti qua. Come se fosse leggermente fuori per questa, ma un pelo tutto, guarda. No, lo sento pure io, per quello sto dicendo. Perché a volte lo fa, se c'è il farla ascolta, un po' altino, no? Allora se fa quel problema lì. Capito? Abbassando leggermente il bicchiere a volte te lo elimina, però chiudendo il farla ascolta un po'. Però tu mi hai detto che farla ascolta non ce n'è, giusto? No, non è una parola ascolta, è un barattino semplice, grande, vecchio, ma non è una parola ascolta, capito? Adesso non ce n'è il fischio qua, cosa sta? C'è solo un sibilo fine, tipo cosa? Va bene? Passo con il kenguru adesso, un attimino che spengo questa e con l'altra. Guarda vedere come ha preso un sorso di acqua. Che è cosa c'è? Signora Rodrigue. Hi Gian, ciao a tutti. Un attimo, non va bene quel monitor al mio computer. Praticamente l'attacco, il cavetto che ha dietro, no? È diverso, gli ho messo il mio, l'ingresso è uguale, che va al monitor, però non lo fa accendere. Ho rotto quel monitor, non ce l'hai rotto la cassettina, non ce l'ha niente, è rotto. Guarda che si apriva, non ci vuole come si apre, si apriva da solo. È distrutto, guarda che i cassettini, se tu guardi, hanno un foro, tu ci fidi un ago e si apre anche quando è spento. Non sta a pizza tu, no, poi c'è manco il mettatore. Guardarsi pure che dal monitor l'ho partito, chi lo sa, bro. Tutto che ho smontato, tastiera, la RAM ne ha 2 giga, sono un giga. Giga, tu capito? Ah, comunque rimane lì, se in caso serve, si è lì. Gianni, sveglia. Gianni, scendete. Ehi, professor Giovic, c'è una zona. Giuseppe come si è entrato? Non so se dire buongiorno, buonasera, buonanotte. Quindi sto pesce. Io, a proposito sto pesce. Qui. No, ma bassino, siamo già qua dentro. Ehi? No, non lo vedi. Punti più diciamo, ovviamente che non siano, dico, trafficati, ecco, punti magari salite così, parcheggi, fagli rifare, non c'è proprio quelli che ti che chiedono. Ma tutto sta facendo, parcheggi, in mezzo al traffico, riesce ad essere già bene. La teoria è difficile, è meglio così. Vabbè. Vabbè. Ok. Ok. Ui, ui. Buonasera a tutti. Io arrivo con una lunga chiacchierata in 40 metri. Non so se c'era Antonello. Dio ci si stava ascoltando. Buonasera a todos. Ciao Cla. Antonello, buon. Faccia la stavo ascoltando qua, sei qua, non mi ricordo. Quella che mi ha dato l'ho data a Franco Cla. Non l'ho controllato. Ha bruciato il finale dell'integrato. Come molto aspettavo. E zio, ma non mi dice un problema. Il problema non è quello, dove dici io o lui. Il problema è che, come ti ho detto io, sicuramente come hai staccato la scheda, ha toccato qualcosa e ha bruciato l'integrato. Ma io ho toccato qua. Io ho rimandato l'espento, ho sollevato il trasformatore. Quando ho salvato quello, c'è staccato un filo giallo. Allora, dov'è che ha trovato il filo? Alla scheda no, alla schedina che c'è una cosa, c'è la schedina. Lì no. Se andava sotto questo coso, io l'ho risaldato, ma non ho fatto niente. Ho fatto un lavoro per attaccare i due fili all'ingresso dell'alimentatore, là. Cioè, per rimettere i LED. Sono toccato altro, cioè ti ho detto che ho fatto un ponte, che ho fatto quello, ma non mi guardo nulla. Sì, ti ho capito, però è successo un corto, è andato in corto l'integrato, quindi automaticamente ha bruciato il finale di alimentazione, forse sollevando il trasformatore, forse toccando, muovendolo, qualche filo che magari era vicino, è andato in corto e ha bruciato quello. Ma tu ci vuoi dire che hai smontato, che hai fatto, è andato in corto e basta. Purtroppo gli alimentatori sono così, sono talmente sensibili che può succedere questa cosa. Questo quanto sta arrivando forte Marco. Mi serve per attaccare al 5024, ma l'amplificatore grande è già pronto in 10 metri per i combattimenti. Quindi mi sono fatto un culo che non ti dico, mi sistemo anche le antenne e sono tutta la sera in radio, tutta la sera. Io, Fabrizio, Walter, Marco, tutti gli eravamo, tutti a giro a pagare. Va bene, comunque te lo sto mettendo a posto, è passato qua stamattina. Avanti, io più brutto, chi c'è altro? Certo. Io stavo quasi per chiudere, ma mi stavo con la guardante, ho contratto tutto. C'era anche il gredino. Oh, Antonio. Grobben, a Bisese, Grobben. Ragazzi, sono andato stamattina a trovare Grobben. Una reggia, sapete che vuol dire una reggia, una casa bellissima, veramente molto bella sia come casa e soprattutto come veduta, come tutto, una casa eccezionale, veramente molto molto bella, le ho fatto complimenti, è veramente molto bella, molto bella, molto bella, una casa eccezionale, è una villa messa sopra un attico, una cosa bellissima, veramente molto bella. Ma guarda, adesso sei già trasferito. Beh, stamattina stavamo piazzando i mobili, c'erano i falegnami, c'era un po' di gente al lavoro, ma sono andato perché ci siamo già sentiti per organizzare dove montare le antenne, ma veramente una bellissima casa, c'è un bagno, ma non lo dico perché c'è un bagno che i rubinetti sono bagnati in oro, quindi ti ho detto tutto, tutto il parquet, guarda, una casa bellissima, veramente molto bella, ma bella veramente, non lo dico perché voglio vantare Antonio, ma ho preso veramente una bellissima casa, bella veramente, vasca di massaggio, di tutto di più, poi bella veramente come fatta, strutturata, impiantistico che è una favola, con questi interruttori di ultima generazione che li tocchi, si accende la luce da sola, cazzo, bella, veramente bella, ma bella però, con tre L. Auguri Antonio, sono contento che abbia preso, ma anche la prima che fosse una bella casa lo stesso, sono contento che abbia preso una bella casa e che se la possa godere, dai. No, ma l'altra è anche a parlare con questa. Quella era una casa bella. Questa è una casa bella, bella, bella, bella. Non c'è niente da aggiungere. Casa nuova, questa non è. È un attico nuovo, mai abitato, quindi immaginati tu. Sente proprio l'odore del pavimento in legno, in parquet, c'è questo parquet favoloso, guarda, sono rimasto a bocca aperta, ho visto il bagno, dato me sono scese le braccia, anche la regina Elisabetta con il bagno uscì, cazzo quanto è bello, bello, bello, bello, bello, veramente complimenti, una grandissima scelta, c'è una vista allucinante, questo terrazzo, minchia cazzo, bello, bello, bello, bello. Guarda, sono pensato il 9 luglio, ma aspetta un attimino, ne torna indietro. Già sono pronto, e te l'ho detto stamattina, non ce n'è, è tutta la sera che ne parlo con mamma, infatti lei la troppa a porta, ne ho detto, lascialo sistemare, appena sistemato andiamo a trovarlo. Bella è a due, cazzo, quando una cosa è bella, bella, io non è che sto lì a tirarla alle lunghe. Capito, Gianni dobbiamo rumore, anche Gino mi sta prendendo. Ah, di chi è questa casa? Io sto ascoltando questa casa bella, perché, per chi, perché, ma di chi è? Il grande Antonio. Dobbiamo dire che non volevo dire. Vai, lascialo dire, a me che mi sta prendendo in giro, ma non lo vedi. Vai, finirà tu. Sei coerente, questa volta te lo dico io. Cazzo, bella è, Anto, è bella. Sto dicendo, mi è rimasta, intanto non l'avevo mai visto, sì, in qualche foto un bagno del genere, ma cazzo, quello è una cosa pazzesca. Sei problemi che stiamo aprendo per cercare di tappare con la vasca. No, vai, ma l'hai già provata, a me fa schiuma. L'importante è che ti massaggi la cugliuppa a bui. Ui, ui. È tutto scritto in contratto. Finito. Capito? Privo di regazzino, privo di abrasioni, di grammi. Chi è a piacere in cru? Ben a tutti. Ascolta, sei riuscito a aprire quelle prese, ti passo Gianni, quelle prese per avere quel corrugato dove esce. Sto arrivando, guarda un po'. 9:20. Capito. Lui se si costruivano così. Un rocchetto di filo di ferro, mi l'ho tirato, ho fatto una burro pesciata. La parità come sta risuonando. Dillo a Fabrizio. Cish. Cosa ha combinato la gira? Mambasa ha fatto i 6 metri da tutte le parti. Dici cosa arrivi, cazzo. Allucinante, che si intende. Ma davvero? Sì. Ha toccato con Walter ed è lì e ti ricordo che lui c'ha un tiro fatto solo, volte ne ha 3. Non si allontana molto, 9.30, 9.22, 9.25, 9.30 chilo. Ma minchia, un'antenata ci mette una bomba ci mette con quell'antenna che ha costruito, io lo seguivo, facevo, ma purtroppo non c'è competizione perché io ho le filari, quindi se non quando non faccio girare le mie, ma arriva da tutte le parti, una canonata, ha fatto un capolavoro. Io vi saluto che mi hanno dato tutto a letto a nanna. Buona serata a tutti e buonanotte. Esatto, siete malavizzato perché ti ho detto che Antonio c'ha il biglietti nuovo. Quindi intanto la prima occasione li rubo e me li prendo. No, quello è. Mi sto addormentando e poi ruttiamo l'audio, quindi chiudo tutto e vi saluto. Io per Antonio sono contento, non c'è problema. Sarà come la cacca. È la cacca. Non per massaggio le mani. Ma che prima di andarmene io prendo una lametta e gliela lascio tutta. E io te la metti da lì più, ma la vita te la fai più tu. Se te la fai avvisami che sto prendendo subito. Faccio io lì. Buonanotte, dai, ci sentiamo. Un momento. Ciao Gerut, ci sentiamo. Capito Antonio? Tu tieni sempre in contatto, lasci tutte le antenne, tutto a posto, non c'è problema, guarda. Non ti lascio senza, non ti lascio. Vieni qua, io passo lì. E tu mi angaggia. E lasci il muro anche io. Un appartamento per conto di... essere numeri 36, 36, 30, dovrebbe essere un 22 o 24. Hai capito, Ugarie? Pugni a gaser, scioccato sono rimasto, non so più bella. Ma non posso immaginare, vabbè. Ho per lui, gli avuti, auguri a tutti. Semplice fatto che il mio hobby era quello, quindi dico dopo sì, ecco, ti do questa, prendi questa, assolutamente, perlomeno io guarda, non sono andato via da San Francesco perché c'è un solo problema, è al terzo piano, 1, 2, 3, terzo piano, quindi quarto piano, mansarda, non c'è ascensore, il palazzo è praticamente nel fare gli appiti, perché è un palazzo antico, quindi è tutto strutturalmente è un bel posto male, Anna non mi piaceva, però io dico, ma non è che tu puoi guardare l'esterno di una casa, devi guardare anche l'interno, c'è un bellissimo appartamento, tutto fatto nuovo, costruito da zero, perché non ha due soffitte, e quindi ti rendi conto che hai un appartamento bello, sì, ma l'estetica dell'immagine non mi piace, quindi non sono andato lì per quello, altrimenti me ne sarei andato lì, non mi fregava niente di venire qua e spendere 1500 euro in cambio di antenne, tu hai capito questo problema. in quegli orari puoi contare su di me. Thank you. io schiaccio il portante, ma capito, lì ci fa un po' di rumore, può essere, no? Sì, quello che vengo io della trasformazione può essere. Ho cominciato a mettermi a posto, ma altre volte ci facevo sentire fino a questa sera. Non mi ha telefonato, dovevo scendere a Marrizza a fare una prova a Pinuccio. Quindi non so se poi è rientrato, se è rimasto lì per la sera. Vabbè, comunque la lampadina ce l'ho io, ancora, quella bruciata. E c'è scritto 24 sopra, ho visto 24, domani la ricontrollo bene per sicurezza. Non c'è scritto 2,20. Io gli avevo messo nuove lampadine, ma probabilmente c'è la sua storia, capito? Però ti posso garantire che ha sempre funzionato bene, molto molto bene. Avete infatti da poco, quando è questa estate, tolto lui, 4 minuti a 140, se lui tirò il boxer da 25 ampere piccolo con due strumenti, meno ingombrante, la ventolina sui 5, e quello me lo riprendo io. Come ha detto sì, poi non ci siamo più sentiti. Ma perché non va bene anche quello che c'ho io, che porto io, sto usando il 430 con quello, no, non ricordo che era un coltello, però è più piccolino, ho capito, più meno ingombrante e tutto, ed è un switching, ti andava molto meglio col baracchino, e nel caso ti prendevi un altro HF, andava bene anche con l'HF, e quello lì l'avrei messo da una parte sotto che non si vede, che non me frega mai delle lampadine. No, però sai qual è il problema? C'è lo switching, il giramento di palle, la fretta, ogni tanto si attacca, perché come i mettatori sono buoni, e la ventola il giramento di palle. La ventola non è attaccata adesso, ma questo è la ventola del 4.30, questo è il 4.30, una bestia sta radio, c'è una ricezione allucinante, molto meglio del 440, 140 manco lo cito, 140 vicino al 430 è un baracchino, già supera il 440, ma non detto la mente, detto a tutti, lo vedono a tutti, capito, e va anche molto bene come modulatore, c'è un'interconversione, va molto bene. Io ho capito le ventole, non si sentono i miei alimentatori, ma voi vi siete fissati a mettere l'alimentatore vicino al baracchino o vicino all'HF. Io gli alimentatori ce l'ho a 2 metri di distanza, sono sotto, arieggiati sotto la finestra, in un piano fatto a parte, e qua non c'è nessun alimentatore. Sì, quello è il fastidio, capito? Bastava che la cassetta di guglioni. Ho preso la pazienza. Vabbè, comunque niente, adesso vediamo un po', domani apro questo qua, vorrei capire cos'è quel rumore che fa, che poi la sicurezza il vittimo latte, boh. Ma come non l'ha aiutato? La madre mani nocchi, non l'ha fottuto per nessuno, ma se non si credeva, allora non si credeva di zucco da un cascionetto. Comunque, come è un problema, sai cosa intenzione di fare, di non utilizzare l'alimentatore? Tanto lì, vabbè, per l'8.50 devi usarlo per forza, mica lo puoi alimentare a 2.20, ma lì gli alimentatori, anche se ne hai 2, 3, 4, quelli che sono, sempre distante dalle radio, si fa un mobilettino a parte, tanto c'hanno tutti la ventola, quindi non te ne frutti nulla, puoi chiuderlo proprio lasciando però il retro per avvieggiare le ventole. Come ho fatto io non ne ho mettato lì qua, sono da una parte, ma non ci vedono, io sollevo il salvavita e si accendono anche gli alimentatori. Sono negativo, voglio alimentarli con le batterie, compro 2 batterie da 100 ampere, metto in parallelo e poi centrale 2 capi da pannelli solari, quindi schermati, positivo e negativo. Le metti fuori nel poggiolo le batterie, per far entrare solo i capi dentro. Vieni tu, c'è il posto tu. Quello è un ottimo lavoro. Non sprechi nulla. Ottimo lavoro. Fatto come hai fatto lì dove sono le bombole. Un bollettino così in plastica messo dentro, quello che carica batterie. Come devi da praticamente a nulla dell'alimentazione, entra in funzione carica batterie. Ottimo. Distorto in modulazione, arriva chiaro chiaro, questo è più o meno lo stesso segnale e tu mi arrivi male, Claudio, in radio. Boh, non capisco il perché. Perché allora cosa vuoi fare se faccio così, guarda? Guarda, tu mangi te che sono 10, 8 volte, 80, 12 modulati. Se fosse così allora non ti arrivo a nulla. Ad RFG tutto aperto benissimo, a seconda dei passaggi mi arrivi non dico strappato ma troppo forte, le parole non le scandisco bene. No, quello lì è il problema della colonnina, evidentemente qualche frequenza bassa spostato grave come c'è da lui non riesce a tirarla fuori, capito? Allora ti va in distorsione. No, tu anche con le cuffie, c'ho le cuffie soli, niente, la stessa cosa. Mi sta facendo con un dito, un una sola volta alla settimana. Guarda che in quel dito che ti ha fatto forse ce ne sono altre due accoppiati. Non è centrale, no, è come stavo pensando di mettere una sovramensola attaccata al muro, bianco alla carta, dopodiché sotto la scrivania è finita, capito? Sì, può fare così. Si può fare tranquillamente, ma se non vuoi bucare il muro per mille motivi, si prende una scrivania normale bianca e si fa il sopparto piccolino come ho fatto io, con i piedi bianchi e l'altra mensola bianca praticamente. E ti viene soppalcato nella stessa scrivania, dove poi tu decidi sopra gli alimentatori, sotto le radio o viceversa, capito? Non è un problema quello. Io sto per non bucare quei muri perché sembrano talmente belli che non ci metterei neanche un chiodo. Tutti i cavi grossi miei, cavi fini, ne ho più, ne ho tutti i corti. messi lì dentro e cavati per, siamo per 9,27 per 30 metri dentro questo coso. All'altezza della finestra di questa stanza è stata fatta una finestrella del pluviale, un quadrato praticamente, dove sono stati portati dentro i cavi. Poi sono passano nella finestra, bucato il muro e fatto entrare dentro. E poi tutto ricanalizzato all'interno perché non ci vedono i cavi. Quindi tu immagini che il casino che ho dovuto fare. Puoi fare una finestrella stesso, della stessa misura con le cernierine, e chiusa a silicone. Ogni volta che io devo tirare i cavi, devo chiamare la Toscana, apri questa finestrella, tirare i cavi fuori dalla finestra e tirarli su dal tetto. Sì, quello lavori pubblici. ciao, buonasera a tutti. Sei sentito tutto il giorno. Guarda, Cla, allora, stamattina stavo a mio Carlo, ha già finito ieri lui, alle 3 era bagaglino, io sono uscito un po' di giornate di lavoro, quindi anche domani sotto il giorno lì, e sono rientrato stasera alle 7, sono uscito, ho fatto due commissioncine veloci, alle 9 lo devo a casa. No, io ho 27 e poco stasera, due chiacchiere così, poi ero sempre in HF un po', e niente, io una traguba, questo funziona bene in baracchino, ci picchia, lo uso poco, ho spento quello là, e il lucretto lo stavo facendo sorto, avanti a tu. No, ma ci viene dove dominato la colazione di questo di Polo, perché proprio due pezzi di vino mi sarebbe arrivato una bomba, ma sì. Sì, magari ce l'ho puntato qua, verso qua. Io sono andato con 20 watt e portante bianca. Sì, a 9.30, figura. Però mi sto arrivando io. Tu sei 7 a picchi di 9. Già va bene, due pezzi di fil di ferro, il posto dell'antenna forse 25 pezzi, ricezione ultima. Ti pare che andrebbe, cioè, ma non so queste delle altre, la giragia. No, ti ascolto abbastanza bene anche a te, la radio è perfetta. Avanti Luca, buonasera. Grazie mille. Se magari, cioè magari, dipende anche dalla potenza comunque sia, ma riusando, tante quelle radio vicine sono tutte spinte, e il baracchino mio me lo mando tutte in affanculo, però quando vicino al baracchino, per esempio con questo che sta uscendo adesso, è perfetta la modulazione, bella, forte, perfetta. Questo è 4 watt, 4 watt e turner sempre più 3. Ed è il Zodiac 5024, quello base che Massimiliano già conosce. Se accendo il DAC va ancora meglio, mi senti, perché più, essendo valvolare, la modulazione è molto più tranquilla, questo magari un po' più spinto, comunque va bene. E Massimiliano, ce ne sia lavoro, usate i nafutti, piaci i nafutti. Io stamattina mi sono alzato presto, visto che era una bella giornata, volevo fare mille cose, però non ho fatto niente. È venuto Franco a trovarmi verso le 10:30, è rimasto sino alle 11:30 e poi se n'è andato. Infatti era a comprare quei pezzi per l'alimentatore di Luca e poi se n'è andato. E io a mezzogiorno e 10 sono uscito, sono andato a trovare Antonio. E niente, poi mi sono rientrato a casa, gioco tutta la sera a casa, tutta la sera in radio, battagliando, facendo, tutto qua, capito? Beh, positivo, positivo. Non credo che state lavorando, infatti, io sinceramente tenevo il lavoro. Ma oggi non facevo niente da sul tetto perché c'è un casino di vento, capito? Non me ne frega niente, sono salito, ho assemblato due fesserie, ho fatto due cose e poi me ne sono sceso. Ma stamattina il vento ce n'era pochissimo, è iniziato verso l'ora di pranzo con le raffiche di vento, adesso non c'è più. Non ci sono andato. Mi sento, sono stanco, pure fa male sempre la schiena, quindi ne ho approfittato. Ci va a bigliare in luci. Va bene, va bene. Avanti, Crode. Quindi stai impacchettando. Affermativo, tu con la radio, guarda, se indovini i settacci, bastano pochi watti per uscire da una bomba. Sì, ma infatti il settaccio è questo e i watti sono 4. Poi ci abbiamo altri watti che sono i watt del closet e... è un gomolo. Yeah. L'unica cosa, non devi esagerare col micigine. Infatti, no, micigine è tutto a posto, anzi ti dirò, i micigine non hanno i radio, non vanno nulla blu più. Non ho capito come cacchio faccio a spingere così, proprio la potenza del microfono solo, non ha MCG, non ha FM, non va nulla, è una cosa allucinante queste vecchie radio quarzate, vero, non ha MCG, non ha nulla, c'ha, cosa c'ha, lo squelci e buh. Ma c'è anche il tarme più 3. Ah? C'è il tarme più 3 attaccato. E che cos'è cagato ora secondo voi? Lui è Antonio, era. E via. E infatti tutta la potenza, proprio qua si vede la potenza del microfono, sta spingendo solo il microfono, un tarme più 3 super sider che è una cannonata. No, non ha niente sta radio. Tu già la conosci, ma si vede, sono senza occhiali. C'è il volume, lo squelci. Poi questo ALB e poi c'è la regolazione dell'osmetro e dei watt e basta. E un filtro che dovrebbe essere tipo la NL, una cosa del genere. Non va proprio nulla, 23 canali, anzi 24, dove c'è l'11 alfa. E boh, Va bene, no Lugaria? Russo, di russo, no, se guardi i codici bene non ti porto tanti problemi. Purtroppo così, pure, con questo lo ascolto benissimo, anche l'altro che c'ha il DAC, così. Ehi, il DAC, ma adesso l'ho comodo, te lo faccio sentire. Oh Luca, questa qua l'ho scaricata da internet, l'ho scaricata da sé, ce ne sono 12 di qua, da sentire. Dimmi il nome, dove l'hai caricato? Si chiama, l'ho caricato stasera, l'ho trovato, si chiama Fart Sound Boat, vuol dire scorreggio, suono di scorreggio boat. A sound? Fart, prima di scrivere Fart, che significa Foxtrot Alfa Romeo Tango. Fart? Fart Sound Boat. E praticamente cos'è? Un sito di droni, questo è il DAC. Croccante. Mi hanno detto che è molto bella come modulazione, bella tranquilla. Tranquilla non è, sembra un po' più assalto. Quanto la Tanner? No. È assalto, non è senso che la teccia. Così, cosa, Massimilia? Così, vuoi una modulazione, vuoi una prepotente, grazie. Quando schiaccia si fa sentire uno. Ma lui è più forte di quella del Tannere, no? Beh, decisamente, è un altro tipo di radio, claro, questo è più forte. Questa del DAC è più forte con l'M500. Sì, certamente, io ti ascolto così. Sta c'è anche l'eco, mi fa vedere, così, c'è una gran pena di lecca. Non puoi anche lasciare, non è così male. No, ma tu hai portato là quella Gigio a casa di Claudio, no? Ma non è Gigio. LB153 cosa era? No, io ho visto anche stamattina Antonio, ma non mi ha dato niente a me. E magari ci è diventato il cratto. Invece l'altra cosa che abbiamo parlato ieri, cra, niente, l'hai detto. L'ho detto anche stasera. E mi ha detto non ci sono problemi, ne possiamo parlare. Ho detto sì, ma la vai o non me la vai? Devo vedere quanto costa. Guarda quanto costa, dimmi cosa vuoi e me la vai. Anche stasera, avevamo tutta la sera in radio. Positivo, va bene. Poi stasera mi ha chiamato Mauro e mi ha detto che la GBC ce l'ha quell'antenna. Ce l'ha quell'antenna lì, capito? Infatti lui è indeciso se prendere quella oppure ne ha una Fusaro simile che costa una trentina di euro. Che la fa la Midland. Ma la LEM forse, la Mini Turbo? Esatto, c'è un altro nome, non si chiama Mini Turbo, simile alla quella che aveva Antonio, capito? Antonio gli hanno fottuta, sono tra via regalata cosa, gli hanno fottuta a sé, e che gli hanno fottuta, cazzo. Magari è rimasto il mozzo attaccato, no Antonio? Possibile. Il mozzo non è uguale a, a quello che ho io. Non so. Il mozzo è rimasto attaccato alla Golf, Antonio. Ah, scusami, mi sono allontanato un attimino, non capivo di cosa stavate parlando. Il mozzo sì, però ne hanno tirato via la bobina e l'antenna. Ma io già immagino chi può essere stato. Ma tu, Marico, quella, quell'antenna tua, cioè la basetta, è come la PLC 800, così è? Uguale, uguale, montano tutta la stessa, lo stesso mondo, e poi sopra è diverso. Quando arriva a tararla? Dove arriva a tararla? Cioè? Ah, 26-28. Mi sembra di sì, sì, sì. Ok. Ti dico la verità, è un'antenna che soffre un po' di stazionale, nel senso che tu, come la tari sul canale, e sono a zero. Dopodiché bastano pochi canali di differenza, cioè non ha un'ampiezza di banda così diciamo bassa di ROS, aumentano quasi subito, per quanto ti copre una frequenza abbastanza ampia, però sui lati va su 1.5 milioni. Addirittura? Per mattino, mentre invece sul canale su cui la senti, se c'è un piano di massa è zero, non si alza neanche l'arco. Non sono cazzo. Non sono cazzo, non infatti un bel, e l'antenna guarda che l'impatto va di più, quanto la tamona sembra che stessi modulando il sasso. Certo non batti, ma si vede assistenza, c'era Fabrizio da Fiume Santo che fa 9-10 qua, lascia perdere che era aiutato da un legnaretto, però quando staccava prima di scendere la macchina era sempre 9-9-5. Ah, ma te la ricordi quell'antenna piccolina, quella che ho dato a Giampaolo? Te la ricordi tu quella da 90 centimetri? Quando scivi dal ghiero dalla Poveri, vabbè, ti ricordo però la mia posizione, ma anche quella andava molto bene, ti sentivo una cannonata. Allora, claro, io con quell'antenna lì, da Olmedo, ho parlato a Campera con Gigi Vulcano. Già me lo ricordo, già me l'avevi detto, però esteticamente anche quella lì era molto bella, Io, anche tu sei stato, hai fatto il dosi tutto in pressa, perché se tu mi davi qualche giorno di tempo, io ti avrei procurato l'attacco come quello che ho io della frusta nera, l'avresti messo quell'attacco lì, e lo stilo, perché io l'attacco di quella ce l'ho, però non ho lo stilo, ne ho uno solo che è la mia, lo stilo me l'avrei fatto era Franco. Franco ce l'ha lo stilo così piccolo, non è in frusta però in ferro nero, molto bella, piccola. Cazzo è quella che usa lui in macchina, non so neanche ci vuole. Franco Califfo, ne ha un altro. Ah, ci metto poco a sostituirlo quel mozzetto, capito? Ho messo la farfalla, ci vuole molto poco. Ci sono un quarto d'ora di lavoro, abbassare il tettuccio, il cavo c'è già, metto lì uno e metti l'altro. Se tu sei disposto a come si dice, a cambiare il mozzo e togliere quello della PLC e mettere quella farfalla, io lo stilo te lo procuro subito, perché Franco ce l'ha uno, ma in linea di massima puoi usare anche lo stilo mio, capito? Io ce l'ho su base magnetica e mista, ma lo stilo no, puoi usare anche lo stilo mio di questa qua. Che praticamente è quella che mi avevi dato tu, che io ho modificato e mi ha tolto la taratura, l'ho tarata direttamente a misura, c'è un 1 di stazionale, perlomeno io l'ho provata in macchina con la base magnetica, c'è un 1 di stazionale, capito? Positivo. No, io questa qua, diciamo, l'ho tarata, giustamente ho accorciato un po' troppo lo stilo e quindi adesso l'ho tarata la bene meglio. Ma con 5 watt di apparecchio così 1 e 2 in tutti i canali, hai capito? Vai due volte su e sempre le due rimangono. Va bene, così va benissimo. spazio, non ci sono problemi. Valvo, dai, io vi saluto, ne sono già 10:30, qua sono già curicati tutti, sono un po' le palle. Ciao, saluto, ma ci vediamo. A Luca, a te Antonio, saluta Chiara. Ci aggiorniamo domani a tutti, dai. Se no, vedremo in altra gadria. A frappe, signori, statemi bene, buonanotte a tutti. Ma ne approfitto, riprendo io e seguo a rotta. Ho ricambiato la Chiara, 7351, buon 144 a tutti. E ci sentiamo alle prossime. Ciao Massimiliano, ciao Claudio, e ciao anche a Luca, anche se non ce l'ho finita. Un saluto a tutti gli ascoltoni, dai. Stazione Il Grotte, modulatore Anthony, chiude la trasmissione. Ciao, ciao. Positivo, dai, anche io sono a rotta e mi sto cascando giù in macchina, che non trovo il cellulare, sicuramente me l'ho lasciato giù in macchina, ma l'ha presa, ma così lo metto sotto carico. Va bene, ciao ragazzi, buonanotte, buon tutto, buon lavoro per domani, per chi lo fa, domani dopo pranzo, qua accendi, vieni dopo pranzo, verso le 5, per rientro da Trentino, così vedere come arriva l'antenna da Trentino. Va bene, ciao Luca, anche a te, là. Buona serata, buonanotte, buon 144, vi saluto anch'io, ciao. Ciao Massimiliano, ciao anche Antonio, buonanotte a tutti, a domani, ciao ciao, d'accordo, dai, ci sentiamo domani.